21. Il bene delle sei nazioni. Tutti quanti lo volevano. Ogni parola era detta per il bene delle sei nazioni. Ogni iniziativa era proposta per il bene delle sei nazioni. Le sei nazioni dovevano vivere. Per vivere, dovevano guarire dal male del tradimento. Per guarire, dovevano purgarsi ed espellere i traditori, escrementi avvelenati che torcevano le viscere. I traditori erano gli Oneida. Colpire gli Oneida era necessario. Questa era la posizione dei giovani guerrieri Mohawk. Canenonte la esponeva con fervore e occhi inondati di lacrime, schiaffeggiandosi il petto coperto di lividi, tra salve assordanti di «Hoye!». Joseph ascoltava in silenzio. In passato avrebbe tradotto quelle invettive a beneficio dei bianchi. Adesso no. Quella che si parlava era una lingua universale, la lingua dell'odio e della vendetta. La si parlava con gli occhi, le rughe sulla fronte, le pieghe intorno alle labbra, il movimento di braccia e gambe. La si parlava con le gocce di sangue che stillavano da ferite appena cucite. La si parlava con dita strette a pugno, di grignare dei denti, lacrime. Nessuno avrebbe alzato la mano per interrompere e dire «non ho capito». La testa di Joseph era un alveare di dubbi. Un piccolo villaggio Oneida, non più di 100 abitanti, era a poche miglia di distanza. Vecchi, donne, bambini, la proposta era di saccheggiarlo, per il bene delle sei nazioni. Prese la parola Orognateca. Gli Oneida avevano guidato i ribelli di Herkimer e combattuto insieme a loro, contro i guerrieri del popolo della Selce. Non si trattava di pochi reietti, come avevano creduto all'inizio, ma dei più validi uomini di quella nazione e persino di un loro Sakem. Era una condotta disonorevole. Avevano tradito, si erano lasciati subillare da Kirkland e avevano spalleggiato i ladri di terra indiana, la marmaglia che violava con disprezzo la casa di Warraghyllagay. Joseph scrutò l'espressione di John Johnson, ma il viso dell'erede di Sir William era indecifrabile. Di fianco a quest'ultimo, Daniel Klaus teneva gli occhi puntati nel vuoto. Joseph provò a figurarsi i loro pensieri. Auriscani, indiani e volontari bianchi avevano superato la prova della battaglia e seminato il terrore tra i nemici. Avevano fatto la loro parte. Lo stesso Herkimer doveva essere morto o moribondo. Ciò era buono. Niente rinforzi per i ribelli assediati a Fort Stanwix. Toccava al colonnello Sunlager e all'esercito di Sua Maestà finire il lavoro e dilagare fino ad Albany, purché l'assedio non durasse troppo. Se non avessero preso Fort Stanwix, la vittoria di Auriscani si sarebbe rivelata inutile. Una schermaglia tra indiani era l'ultima preoccupazione di Klaus e Sir John. Se proprio non si poteva evitare, andava considerata una piccola tassa, un incidente periferico. Un pedaggio per poter viaggiare su quella strada, come accadeva in Europa. Il tradimento degli Oneida era una piaga da incidere e cauterizzare subito. Altrimenti il pus del rancore l'avrebbe gonfiata e fatta marcire. L'infezione si sarebbe estesa in guerra aperta. I Mohawk avrebbero sprecato vite ed energie a uccidere altri indiani anziché combattere i Whig. Lasciar fare, dunque. E Joseph? Che decisione avrebbe preso? Dall'altra parte del cerchio di uomini, John Butler stava in piedi, a braccia conserte, appoggiato a un albero. Seduto a poche yard di distanza, suo figlio Walter impaziente, contrariato. Per i Butler finire il lavoro significava anche liberare il resto della famiglia, ancora prigioniera dei Whig. Per Walter starsene seduti a parlare dell'onore indiano era una perdita di tempo, mentre la madre e i fratelli marcivano in prigione, vittime di chissà quali abusi. Glielo si leggeva in faccia. Estirpava fili d'erba e li strappava fino a ridurli in poltiglia. I polpastrelli delle dita erano verdi. Orognateca proseguiva. Gli Oneida si erano alleati coi vigliacchi che da anni rubavano le terre dei Mohawk, con l'inganno e contro le leggi. Gli Oneida andavano puniti, subito, senza aspettare. In nome della grande pace, dell'onore della lunga casa, dello spirito di Saki Yenakenta, Roya Takariyo e gli altri caduti. «Oye! Oye! Oye!» Qualcuno chiese il parere dei bianchi presenti. Cormac MacLeod disse che era un affare tra indiani. Gli Highlanders se ne chiamavano fuori, non avrebbero aderito a una rappresaglia né l'avrebbero impedita. Da scozzese sapeva cos'era una guerra tra clan. Ciascuno doveva sbrigarsela come meglio credeva. Henry Hogue si alzò e disse che lui e gli altri volontari avrebbero seguito Joseph Brandt, qualunque decisione avesse preso. Tutti guardarono Joseph, si aspettavano che parlasse, ma non lo fece. Con un cenno comunicò distacco, attesa, ascolto. Guardò per un momento Butler. L'uomo di Fortnia Gara non ricambiò l'occhiata. Nessun altro bianco parlò. A nome dei Seneca prese la parola Sayengaragta. Parlò con solennità. Disse che i suoi guerrieri erano arrivati a Orianski soltanto per vedere, ma nell'infuriare dello scontro si erano dovuti unire ai fratelli Mohawk. Disse che tanto sangue di coraggiosi era stato versato, che l'onore guerriero dei Mohawk e dei loro amici aveva impressionato i Seneca. Aggiunse che il ricordo di una battaglia così bella non poteva essere sporcato da tentennamenti soltanto un giorno dopo. Una delle nazioni della Lega si era comportata in modo spregevole. I fratelli minori avevano alzato il tomahawk e acceso le polveri contro i maggiori. Seneca e Mohawk erano i guardiani delle porte della lunga casa. Insieme avrebbero compiuto il loro dovere e punito i traditori, indegni di rimanere sotto quel tetto. Il villaggio Oneida andava razziato per il bene delle sei nazioni. Joseph ascoltava, soppesava, rifletteva. Vide il gran diavolo alzarsi, guadagnare la prima fila e appoggiare al centro del cerchio la mazza che aveva ucciso Son Nonsense. «I traditori sono morti sul campo. La vendetta è già compiuta». Il silenzio rimase inviolato. Filippo non aggiunse altro. Tornò a sedersi in disparte e caricò la pipa. Domande stupite scivolarono da una testa all'altra, senza bisogno di risposte. Le braccia di Oro Ognateca caddero lungo i fianchi, negli occhi l'espressione incredula di chi ha ricevuto una coltellata invece di un abbraccio. I Seneca sembravano divisi tra ripulsa e rispetto. Joseph guardò l'amico e pensò che al suo posto avrebbe fatto lo stesso. Nessun guerriero della lunga casa aveva mai versato il sangue di un Sakem. Se c'era un uomo che aveva chiuso in battaglia i suoi conti con gli Oneida, si chiamava Philippe Lacroix. Gli equilibri tra le sei nazioni erano una questione da capo, una questione per Joseph Brandt, l'indiano del dipartimento che aveva smesso di essere un semplice interprete. Non doveva più riportare, adattare, abbellire le parole di altri. Le parole più attese erano le sue. Se non avesse appoggiato la vendetta, avrebbe ferito l'orgoglio dei guerrieri e scontentato i Seneca. Tutto avrebbe preso a sfaldarsi. Doveva concedere soddisfazione. Doveva mostrarsi all'altezza del compito che si era addossato. Si alzò e raccolse l'arma di Philippe.